Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Sono ormai numerose le città che si sono lanciate in progetti Smart City, abbastanza numerose da consentirci un primo bilancio non tanto sul risultato di questi progetti, al momento evidentemente del tutto prematuro, ma sull'approccio con cui tante amministrazioni pubbliche stanno affrontando questo percorso. Le criticità infatti non mancano e Federico Pedrocchi ne ha parlato con Piero Fassino, sindaco di Torino e dirigente dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Sentiamo. Siamo un paese nel quale abbiamo 2-3 grandi aree metropolitane, però abbiamo la specificità di avere tante città importanti intermedie come dimensione e poi abbiamo anche un tessuto di piccole cittadine che è estremamente significativo. Progettare Smart City per queste tre situazioni è non banale. Lei cosa pensa del fatto che probabilmente bisognerebbe avere forse tre approcci anche diversi? Ma ci sono temi sui quali le applicazioni delle tecnologie digitali e la realizzazione di politiche di Smart City possono essere realizzate in comuni di dimensioni diverse. Penso per esempio all'efficientamento energetico, certo, degli edifici, che vale per una grande città come per un piccolo comune. Penso alle azioni per determinare un controllo delle dinamiche ambientali in funzione di una loro migliore qualità. Queste possono essere applicate a qualsiasi realtà. Poi ci sono altre tematiche che naturalmente hanno un campo di applicazione più direttamente riferito alle grandi città. Per esempio, per fare un esempio di un progetto su cui stiamo lavorando a Torino, la distribuzione delle merci nel centro cittadino attraverso veicoli commerciali. È chiaro che questa è una tipica tematica di una grande città, perché in un piccolo comune questo problema si risolve molto più facilmente senza bisogno di particolari interventi. Certo. Alcuni analisti dicono appunto che però bisogna stare un po' attenti a capire queste vocazioni particolari e non agire come se tutti fossero appunto una grande area metropolitana che... Insomma, si può subire anche il fascino di decisioni che si prendono nei grandi centri, no? Io penso che bisogna essere molto pragmatici, cioè Smart City è un'idea di città cui l'applicazione delle tecnologie digitali e delle tecnologie innovative consente di flessibilizzare e di migliorare la qualità della vita dei cittadini. E in ogni città bisogna mettere in campo progetti che corrispondano a obiettivi concreti, misurabili e verificabili. C'è un altro tema sul quale appunto si discute ed è il fatto che in modo quasi fisiologico, insomma non è tanto una critica, è proprio un problema in sé da risolvere, ci potrebbero essere una serie di interventi un po' a macchia di leopardo, spot, mentre invece è bene che i comuni, e qui sì, piccoli, grandi, intermedi, abbiano un'idea un po' unitaria del progetto smart che vogliono mettere in campo, se no possono venire fuori. Bisogna evitare che Smart City si traduca nella realizzazione di progetti o di iniziative che hanno puro valore esemplare o simbolico, ma che non sono replicabili, non lo so. Una cabina elettrica particolare, una cabina telefonica nuova, intelligente di nuova generazione, una forma di controllo della sicurezza in un punto della città. Queste cose sono utili, ma noi non possiamo trasformare le città in presepi. Perché certo, fare tanti interventi che hanno valore solo esemplare o simbolico rischia di trasformare una città in un presepe di tante cose uniche. Invece noi abbiamo bisogno di avere progetti che siano applicati a porzioni di territorio e su cui si applica un certo intervento in termini generali, replicabili e con un'efficacia che sia misurabile in un numero ampio di cittadini che ne sono destinatari e fruitori. Il tema vero è non solo avere dei progetti, ma avere progetti che abbiano carattere di generalità e di replicabilità. Cioè, le chiedo un'ultima cosa che è anch'essa al centro del dibattito che c'è su come progettare le città e come queste nuove opportunità, appunto queste grandi trasformazioni, si interfacciano con un'amministrazione che certamente deve essere in grado di gestire questi sistemi più complessi, deve essere in grado di parlare, interagire con la gente e anche con le aziende, con gli artigiani, insomma in un modo effettivamente nuovo. Qui insomma in Italia ci sono un po' di cose da cambiare, insomma è una grande opportunità, ma forse ce la facciamo questa volta. Sì, ce la facciamo, naturalmente, a patto che si capisca che Smart City prima di tutto è un progetto culturale, cambia l'idea di città. Nel momento in cui ci si affida a tecnologie digitali e a reti virtuali, è è chiaro che la città che dobbiamo pensare è molto diversa. Le città del Novecento erano città molto strutturate, molto statiche, molto rigide, e quindi va pensata una città in termini nuovi, in termini diversi, non solo negli interventi, ma anche nel modo con cui i cittadini vivono la loro vita nella città. Ma proprio nell'attività che l'amministrazione centrale di un comune, insomma, deve essere in grado di fare, lei vede delle criticità che ci vengono da un passato che non è più, diciamo, in grado di affrontare? È evidente che occorre un salto culturale da parte di tutti, in primo luogo delle amministrazioni, perché fare i conti con questo nuovo modo di pensare la città significa anche innovare l'ordinamento, le normative, le procedure, il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Una delle cose principali di Smart City è, per esempio, rivoluzionare il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nei servizi, nel rapporto con gli uffici, nelle procedure, nel rapporto con gli sportelli, nelle autorizzazioni. Non sarà banale, però ha anche un suo certo fascino, insomma. È certo che è un fascino, è un grande progetto, si tratta di pensare la città in termini nuovi, una città nuova per un secolo nuovo. Grazie Sindaco Fassino, buon lavoro. Grazie a lei. Ebbene, domani e dopodomani, 5 e 6 giugno, a Bologna parte lo Smart City Roadshow, una serie di appuntamenti in diverse città italiane in cui verranno discussi temi connessi ai progetti Smart City in corso. Ve lo dico perché vi si affronteranno anche i temi di cui abbiamo parlato oggi, che noi qui a Smart City riteniamo cruciali e per questo intendiamo presidiare con grande attenzione. Per ora però è tutto, appuntamento a domani.